Sono le 20, ora locale, pari alle 18, ora di Greenwich. Qui il Cairo, radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto. Siete sintonizzati, carissimi amici, sull'ascolto del programma italiano di Oltremare, che viene trasmesso sulla frequenza di 6.270 kHz, pari ad onde corte di 49 metri, programma in lingua italiana a destinazione dell'Europa centrale. Carissimi amici, buonasera e ben ritrovati allo studio 33 di Radio Cairo. Carissimi amici, ho il grandissimo piacere di accompagnarvi stasera Ibtissam Abdelmegid dallo studio 33 di Radio Cairo. Nel corso della nostra trasmissione odierna vi presenteremo, carissimi amici, una varietà di programmi cominciata quest'oggi con canzoni arabe. Alle 20:15 sarà la volta del notiziario seguito dal commento politico. Alle 20:30 100 anni di cinema di Ola Samir, alle 20:40 dedicata a te di Heba Rashid, alle 20:50 ogni domanda una risposta di Ola Samir, alle 20:55 il riepilogo delle principali notizie seguito dalla presentazione del programma dell'indomani e alla fine la canzone araba conclusiva. Ed ora, carissimi amici, vi auguriamo buon ascolto sempre con Radio Cairo. Oh, Thank you. عرض النعم يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع أرض المدائن أرض المصانع عشت يا مصر يا أم الهرم عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم ميلك يا سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم إلهي صونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور إلهي صونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور ونزرع في ظلك خمايل زهور وبهجة وسعادة ومغنى ونغم عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم جيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم Sono le 20:15, qui il Cairo, radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto. Vi invitiamo ora all'ascolto del notiziario. Cominciamo con il riassunto delle principali notizie. Il primo ministro egiziano dichiara nessuna fretta per la nomina dei nuovi ministri. 8 nuovi ministri in Iraq. Abbas Davani è scelto a capo del programma nucleare iraniano Il ministro degli esteri russo si reca domani in Gran Bretagna. Ed ora le notizie in dettaglio. Nessuna fretta per la nomina dei nuovi ministri in Egitto per riempire i posti lasciati vuoti dai dimissionari. Lo ha fatto il primo ministro Ahmed Shafik nella prima conferenza stampa dall'uscita di scena del presidente Hosni Mubarak 2 giorni fa. Non attribuiamo alla questione più importanza di quanto ne meriti, ma non nomineremo un nuovo ministro che non riscuota totale fiducia, ha detto Shafik. Da parte loro, le autorità egiziane fanno sapere che l'attività sul canale del Suez procede regolarmente. Il nuovo governo egiziano resterà in carica per un periodo di transizione dei 6 mesi che porterà il paese a elezioni democratiche. Lo ha riferito la TV di Stato, aggiungendo che il Consiglio Supremo delle Forze Armate ha sciolto il Parlamento dominato dal Partito Nazionale Democratico di Hosni Mubarak e ha sospeso la Costituzione. Costituzionalmente, la leadership militare ha istituito una commissione per emendare la Costituzione. A pronunciarsi sugli emendamenti saranno gli egiziani con un referendum popolare. Il segretario generale della Lega Araba Amru Musa si è espresso fiducioso in un buon futuro in Egitto. Musa ha sottolineato l'importanza della fase intermediaria attuale che condurrà alla costruzione di una comunità democratica in Egitto. Il direttore della borsa egiziana Khalid Sereddin Siam ha dichiarato che la borsa riprenderà i suoi lavori ufficialmente il mercoledì prossimo. Siam ha indicato che questa decisione è stata presa in seguito delle sue consultazioni con l'organismo di controllo delle finanze e delle diverse parti interessate. Il Marocco si è felicitato degli impegni chiari dell'esercito egiziano di assicurare una transizione verso un potere civile eletto. In un comunicato del Ministero degli Affari Esteri, il Marocco ha espresso la sua fiducia completa nel genio del popolo egiziano e la maturità politica dell'insieme delle forze nazionali. Inoltre, Rabat esprime vivamente che l'Egitto continuerà a giocare il suo ruolo principale sulla scena regionale ed internazionale, soprattutto nella difesa delle cause del mondo arabo e della nazione islamica. Una fonte responsabile nell'aviazione civile nel Charga ha negato l'atterramento dell'aereo dell'ex presidente egiziano Hosni Mubarak nell'aeroporto internazionale di Charga negli Emirati Arabi Uniti. La negazione avviene in risposta a delle notizie secondo le quali l'aereo di Mubarak ci ha atterrato, ha menzionato l'agenzia stampa degli Emirati Arabi Uniti, UAM. Il Parlamento iracheno ha approvato 8 nuovi ministri, lo ha reso noto una fonte parlamentare. I legislatori hanno dato il via libera ai candidati presentati dal primo ministro Nour el-Maliki per i dicastri dell'energia elettrica, del commercio e della municipalità. Non sono ancora stati nominati invece i candidati ad altri delicati ministeri come difesa, sicurezza nazionale, pianificazione ed interno. Il Parlamento ha anche votato 3 vicepresidenti, 2 sciiti ed 1 sunnita, come previsto dall'accordo di divisione del potere siglato dalle iracheni di etnia sciita, sunnita e corda a novembre scorso, 8 mesi dopo le elezioni parlamentari. Sono le 20:20 da Radio Cairo, siete all'ascolto del notiziario. primi disoccupati sono scesi in piazza ad Annab in Algeria per reclamare i 7.000 posti di lavoro promessi qualche giorno fa dal governo. La manifestazione è sfociata in scontri con le forze di sicurezza, cominciati quando alcuni disoccupati hanno lanciato pietre contro la sede della prefettura. Si è dimesso il ministro degli esteri tunisino, lo ha riferito l'agenzia locale TAB, citando un comunicato ufficiale. Il primo ministro francese François Fillon ha inaugurato oggi i nuovi locali della Sorbonne a Abu Dhabi, prima università francofona del Golfo. Dopo l'inaugurazione, Fillon si è recato a Dubai per dei colloqui bilaterali e li visiterà in seguito la nuova base militare francese di Abu Dhabi. Una donna è rimasta ferita oggi a Sana'a, capitale del Yemen, quando le forze di sicurezza sono intervenute per disperdere una manifestazione degli studenti ostile al regime. Lo riferiscono testimoni secondo i quali gli agenti hanno attaccato a colpi di manganello circa 2.000 persone partite dall'Università di Sana'a in direzione del palazzo presidenziale, escandendo slogan contro il presidente Ali Abdullah Saleh al potere da 32 anni. Almeno 10 persone sono state arrestate. Lo scienziato iraniano Abbas Davani è stato scelto a capo del programma nucleare iraniano, lo ha riferito la TV di Stato. A novembre dell'anno scorso, Davani, mentre brillante della ricerca atomica iraniana, rimase ferito in un attentato nello stesso giorno in cui il fisico Majid Shahrayari morì saltando in aria con la sua auto. Shahrayari stava lavorando ad un progetto di ricerca scientifica promosso dall'UNESCO, mentre Davani è un specialista nella produzione di combustibile nucleare. Il ministro degli affari esteri russo Sergei Lavrov si recherà domani in Gran Bretagna per rinserrare dei legami tesi da una serie di scandali degni della guerra fredda sul fondo di intensa cooperazione economica, tra cui un accordo petrolifero storico. Lavrov incontrerà il primo ministro britannico David Cameron ed il suo omologo William Hague nel corso di una visita di 2 giorni, secondo il Ministero degli Affari Esteri russo. Questo accordo avviene dopo l'annuncio in gennaio di un accordo petrolifero tra i due paesi. Da Mosca era stata l'ultima notizia. Da Radio Cairo avete appena ascoltato il notiziario. Nuovo appuntamento con Telegiornale Radio domani sempre alla stessa ora. Grazie e a risentirci. Ed ora, carissimi amici, vi invitiamo all'ascolto del commento politico creato e presentato stasera da Tessan Abdelmaghi dal titolo La rivoluzione di un popolo. La rivoluzione del popolo egiziano è stata una completa sorpresa per il governo ed i partiti di quel paese, ma anche per gli altri governi arabi e non arabi coinvolti, tra i quali Israele. Tuttavia, questa rivoluzione è stata una sorpresa anche per le élite attive in politica in Egitto e nel mondo arabo, colte di sorpresa in maniera del tutto inaspettata. In ogni caso, la rivoluzione ha sorpreso anche i giovani che l'hanno innescata e che non sapevano che il grido da loro lanciato in favore della libertà e della dignità avrebbe ribaltato lo statu quo nel paese e dato una scossa alla situazione stagnante nella quale si trova l'Egitto, come forse anche gli altri paesi arabi. La sorpresa totale in questa rivoluzione è rappresentata dal fatto che essa non si è svolta come al solito, ma come tipicamente avvengono le rivoluzioni del mondo, dalla rivoluzione francese a quella bolscevica, ma essa ha tracciato un percorso con delle varianti ad esso peculiari. La rivoluzione del popolo egiziano, grazie al suo svolgimento relativamente tranquillo ed equilibrato, continua ad essere una sorta di scuola politica in grado di insegnare in pochi giorni ad ampi settori del popolo egiziano quei concetti politici che normalmente richiedono generazioni per essere appresi. Questa rivoluzione, e prima di essa la sollevazione del popolo tunisino, ha riportato la cittadinanza sulla scena politica dopo una lunga assenza, insegnandole come definire un popolo. Essa, ad esempio, partendo da un semplice movimento spontaneo, ha immaginato di porre un limite al regime, al disputismo e all'emarginazione che incombono sul popolo egiziano, ed eccola trasformarsi in un movimento politico che mira a presentare delle risposte chiare alle questioni della legittimità della Costituzione e delle elezioni. La rivoluzione egiziana è popolare nel vero senso della parola, in virtù delle forze che la guidano, delle sue modalità di azione e dei suoi slogan, a prescindere dai suoi strumenti e dai suoi limiti. Le rivoluzioni infatti possono fallire o cessare, come possono anche vincere, realizzare i propri obiettivi in tutto o in parte, in un colpo solo o in fasi diverse. Ciò che avviene in Egitto è davvero una rivoluzione, con tutto il rispetto per le parole di Marx e Lenin sulle rivoluzioni proletarie, sulla violenza rivoluzionaria, sulla missione storica e sul fatto che le rivoluzioni abbiano bisogno di un partito e di un'avanguardia rivoluzionaria. L'Egitto sta tracciando la sua strada verso il futuro. L'Egitto sta tracciando la sua strada verso il futuro e verso uno Stato fatto di cittadini. Il resto verrà di conseguenza. Da Radio Cairo avete appena ascoltato il commento politico curato stasera dal titolo La rivoluzione di un popolo. Radio Cairo presenta Cento anni di cinema. Cura di Ola Samir. Cari amici all'ascolto, il cinema è l'arte d'oro che ci porta in un mondo molto affascinante e meraviglioso, un mondo di fantasia e realtà, di gioia e tragedia, di risi e lacrime, e in questo mondo ci dimentichiamo totalmente, unendosi ai personaggi e agli eventi che appaiono sempre sul grande schermo. E parlando dell'arte settima, non si può negare il gran merito del cinema egiziano in questo campo, grazie alla sua lunghissima storia e al grande contributo degli artisti egiziani e arabi molto abili che hanno svolto tanti sforzi e sacrifici lungo gli anni per vedere grandissimo il cinema egiziano. Questo vostro programma è dedicato al cinema egiziano che ha celebrato a giugno 2007 il suo 100° anniversario. In ogni puntata vi parleremo in dettaglio di uno dei bellissimi film egiziani, moderni oppure classici, da tutti i lati, sceneggiatura, regia, personaggi. Seguiteci dunque. Buonasera carissimi ascoltatori e benvenuti ad una nuova edizione del vostro programma settimanale 100 anni di cinema. Vi parleremo stasera di un raro film classico prodotto a bianco e nero nel 1932. Si tratta di El Dohaya, o Le Vittime, che è stato presentato alla rassegna Onde del Desiderio durante l'edizione del 2002 del Torino Film Festival. Una rassegna che aveva un obiettivo piuttosto ambizioso, ossia tratteggiare nel mondo più esauriente possibile il panorama delle più storicamente fondata e della più produttiva cinematografia del mondo arabo. Le vittime, che ha la durata di 20 minuti, è scritto e girato da uno dei pionieri del cinema, il regista egiziano Ebrahim Lama. Vi daremo più dettagli sul film di stasera dopo il prossimo stacco musicale. Il Bahia o le vittime è la versione sonora del film muto porta lo stesso titolo, Le vittime, di cui resta solo il nastro rovinato, unica testimonianza del cinema muto egiziano fino a quel momento. Al contrario di quanto pensano gli occidentali, che all'inizio del XX secolo le donne fossero ancora in una posizione inferiore in Egitto. Il cinema egiziano è stato fondato negli anni '20 dalle donne pioniere che erano ascesi da un forte desiderio di sviluppare un'industria nazionale del cinema. Tra le donne è stata l'alessandrina Biga Hafez, la protagonista del film, a cui dedichiamo questa puntata, Le vittime. Bahia Hafez è stata una donna di vari talenti che si sono espressi già nel tempo del cinema. È stata un'attrice, produttrice e compositrice di musica. Partecipava anche a modificare e disegnare i costumi dei film. Bahia Hafez è nata nel 1908 da una rispettabile e ben consolidata famiglia artistocratica alessandrina. Si è approfittata tanto di tal contesto immensamente privilegiato. Ha potuto imparare con fluenza a parte l'inglese, il francese, l'italiano, oltre all'arabo, grazie alla formazione che ha ricevuto nelle scuole di lingua e lo spirito cosmopolita di Alessandria a quel tempo. Ha anche imparato la musica in età molto giovane e imparato ad apprezzare l'arte e perché ha cresciuto in un ambiente artistico creato da suo padre, che era appassionato delle arti e incoraggiava promettenti giovani artisti come Salah Abdelhai e Abdel Halim, ospitando nella sua casa di Munira El Mahdeya ad Alessandria. Dal 1930 fino al 1945 Bahia Hafez ha presentato più di 8 film, fra cui Laila al-Badawiya o Laila al-Badwina, o Le vittime, Laila bint al-Sahara o Laila figlia del deserto e L'accusa. Oltre a Bahia Hafez, protagonisti del film di cui parliamo stasera, Il Dahiya o Le vittime, sono stati le grandi star egiziane Zeynep Sıdkı, Abdüsselam Nablusi e Zeki Rostom. Il film narra le vicende di una donna, Bahiga, che ama il cugino, tenente di polizia, Galel, ma allo stesso tempo anche sua sorella maggiore, Nazik, prova affetto per l'ufficiale. Costrettata, genitori, a sposare un uomo che non ama, Bahiga scopre che questi traffica in droga e dopo varie vicende che la riallacciando agli effetti della sua giovinezza verso Galel, si lascia morire. Quando il film è stato presentato al Festival di Torino nel 2002, un critico italiano ha scritto: interessante è la figura dell'attrice protagonista Bahia Hafez, che con un'espressività decisamente teatrale sa rendere il dolore delle proprie condizioni senza mai eccedere, ma permettendo allo spettatore di immediatamente con il personaggio di partecipare. Si preferisce l'universalità del sentimento su cui il regista punta proprio per offrire un prodotto che accomuni i vari strati della società. in quanto la ridottività della vicenda sfuma di fronte all'intensità del personaggio. Lo sviluppo del suo complesso risulta piuttosto piacevole. La costruzione delle immagini ricorda a tratti di Degas Rottibi dell'epoca, ma senza eccedere mai nel compiacimento estetico. Cari amici, termina così il tempo dedicato alla nostra puntata di stasera, ma vi diamo sempre appuntamento alla settimana prossima augurandovi un buon proseguimento di serata. Da Radio Torre avete ascoltato 100 anni di cinema, un programma di autore di Ola Samir e l'ha presentato Anexir. Radio Cairo vi invita all'ascolto di dedicata a te. A cura di Heba Rashid. Carissimi amici di Radio Cairo, buonasera e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata del vostro programma settimanale dedicato a te, in cui vi presenteremo una selezione di canzoni oltre al nostro vocabolaretto arabo. Seguiteci! L'Egitto, cari amici, sta vivendo attualmente una nuova fase nella storia e si orienta verso cambiamenti sostanziali nel prossimo futuro. Infatti, la rivoluzione del popolo egiziano, cominciata il 25 gennaio 2011, ha già aperto un nuovo capitolo della storia del paese. Stasera, cari amici, vi invitiamo ad ascoltare una varietà di canzoni patriottiche. La prima canzone è intitolata Mashrebtesh min Nilha, ovvero Non hai bevuto dal suo Nilo, della cantante egiziana Shirin. Ma prima della canzone, eccovi, cari amici, una nuova raccolta di parole da arricchire il vostro vocabolarietto arabo. Egitto, Masr, il nostro paese, Baladna, strade, Shawera, anni, Sinin, il Nilo, El Nil. بلدنا أمانة في إيدينا خليها مدى معيشين نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين بلدنا أمانة في إيدينا خليها مدى معيشين نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين ما شربتش من ليلها طب جربت تغني لها جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها ما مشيتش في ضواحيها طيب ما كبرتش فيها ولا ليك صورة عرفنا كانت عشت تسمعني دور جوا تلقاها هي الصحبة وهي الهاه عشرة بلدي بتبقى ياللها علبة المرسلين في الناس لإنك فيها مش وحشك ولا غبت عليها بس اللي مجرب فارقها الف الدنيا مفيش بعديها إن غبت بحن لها وانسى الدنيا واجيلها وإن جيت انسى تفكرني بمليون ذكرى القلب شايلها في الدنيا مفيش بعديك مشربتش من ملها طب جربت تغنيل جربت في عز ما تحسن تمشي في شوارعها وتشكل يا بلدنا عليك. Ed ora cari amici siete invitati ad ascoltare una canzone che ha per titolo Edhulua Selemin, ovvero Entrate in pace, della cantante egiziana Shadia. أولاد مصر ادخلوها سالمين ادخلوها آمنين ادخلوها سالمين ادخلوها آمنين أولاد مصر لو لفيت الدنيا بحلالة لفيت ورحت وجيت وعرفت وشفت وقلت لقيت جنتي وارتحت واتمتعت بسحر جمالها لو لفيت مش هتلاقي مهما تشوف أرض المحبة مفيهاش خوف مش هتلاقي مهما تشوف أرض المحبة مفيهاش خوف ادخلوها مصر ادخلوها سالمين ادخلوها آمنين ادخلوها سالمين أولاد مصر لو لفيت الدنيا بحلقة لفيت وتهت في الليل الغربة وضعت وقلت يا ريتني ما كنت سافرت رحلة كانت من أولها ما فيهاش يوم ما فيهاش يوم حسيت بأمان يبقى ضاع منك عنوان ما فيهاش يوم حسيت بأمان يبقى ضاع منك عنوان بلدك مصر وادخلوها سالمين ادخلوها آمنين ادخلوها سالمين Da Radio Cairo avete appena ascoltato Dedicata a te. Un programma a cura di Heba Rashid presentato da Alessia Bulma. واهلا بيك من صوت ملهوف ده انت في بيتك واحنا ضيوف واهلا بيك من صوت ملهوف ده انت في بيتك واحنا ضيوف. Da Radio Cairo vi presentiamo Ad ogni domanda una risposta. Buonasera cari amici e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata del vostro programma settimanale Ad ogni domanda una risposta. Ci fa grande piacere di presentarvi questa puntata in una nuova fase nella storia egiziana, una fase di libertà e dignità. Stasera daremo risposta alla domanda giuntaci dal nostro amico Mario Giampaolo, che dice: parlatemi della piazza al-Tahrir, cosa significa il nome e quali sono i momenti più importanti che ha visto questa piazza. Carissimo amico, infatti la piazza al-Tahrir è diventato un carissimo luogo per gli egiziani dopo gli ultimi avvenimenti che ha visto il paese nei giorni passati. Il nome della piazza al-Tahrir significa liberazione ed è davvero la piazza della libertà, della volontà e della dignità. La piazza al-Tahrir è la piazza centrale del Cairo che ha da poco visto raggruppati milioni di egiziani chiedendo i propri diritti politici, sociali ed economici. Fino al XX secolo questa zona della città era solo una pianura baldusa, inondata dal Nilo ogni estate. Nel periodo 1860-1880 la zona fu bonificata per volontà del Khedive Ismail, che decise di far diventare il Cairo moderno una città in stile europeo, con viali alberati e grandi piazze pubbliche. Accanto al fiume fu costruito il ponte Kasr el-Nil, il palazzo del Nilo, affacciato da un lato sul fiume e dall'altra parte sulla grande piazza Ismailia, noto oggi come la piazza al-Tahrir. La gestione poco efficace del progetto asciugò però non solo la baldi, ma anche le casse del governo, creando dei debiti consistenti con diversi governi europei e dando inizio al periodo di invasione degli inglesi che occuparono il territorio per prenderne il controllo. La rivoluzione del 1952 spazzò via le tracce dell'antico regime e la grande piazza Ismailia fu ribattezzata Medan al-Tahrir, piazza della liberazione. La piazza oggi è situata intorno ad una grande strada giratoria, ospita uffici di viaggio e agenzie di linee aeree. La moschea di Omar Makram, oltre la struttura dell'enorme edificio del Mogamma. Andando in direzione est si passa per la via Talat Harb per arrivare nell'altra piazza importante del centro del Cairo, la piazza Talat Harb. La piazza al-Tahrir ha visto momenti importanti nella storia d'Egitto, in cui si è riempita di migliaia di persone, come i funerali del presidente egiziano Gamal Abdel Nasser il 4 febbraio di 36 anni fa, il 1970. Erano i funerali di Umm Kulsum, la stella d'Oriente, la regina della canzone araba. Allora il popolo egiziano scese in strada e riunì nella medesima piazza e a rendere omaggio a colei che era più di una cantante, più della voce del banarabismo, più della voce dell'aria nesseriana. Era la voce del popolo proveniente da un piccolo paese e diventata la voce araba per eccellenza. Allora si dice che 2 milioni di egiziani si riunirono per il suo funerale. Ma la piazza al-Tahrir del Cairo non si è mai riempita, come abbiamo tutti visto, dal 25 gennaio fino all'11 febbraio 2011. Un segno inequivocabile della volontà di andare fino in fondo, fino alle dimissioni di Mubarak. Cari ascoltatori, termina così il tempo dedicato alla nostra puntata di stasera, ma vi diamo sempre appuntamento alla settimana prossima. Allora vi lasciamo augurandovi un buon proseguimento di serata. Da Radio Cairo avete ascoltato Ad ogni domanda una risposta. Un programma a cura di Aula Samir e l'ha presentato Anahir. Thank you. Da Radio Cairo vi presenteremo il riepilogo delle principali notizie. Il primo ministro egiziano dichiara nessuna fretta per la nomina dei nuovi ministri. 8 nuovi ministri in Iraq. Abbas Davani è scelto a capo del programma nucleare iraniano e il ministro degli esteri russo si reca domani in Gran Bretagna. Carissimi amici, domani è lunedì in compagnia della nostra Sadeia vi presenteremo una varietà dei programmi cominciata con un brano di musica orientale. Alle 25 minuti scatti dall'Egitto un programma di Heba Rashid. Alle 20:15 sarà la volta del notiziario seguito dal commento politico. Alle 20:30 vi presenteremo un nuovo giro giornalistico nella stampa egiziana tramite una nuova puntata di Prima Pagina. Alle 20:35 una conversazione speciale in occasione della nascita del profeta dell'Islam Muhammad. Alle 20:40 quattro chiacchiere di Sadia Bakir. Alle 20:45 enciclopedia audio di Amani Shaheen. Alle 20:50 almanacco turistico di Hana Akhir. Alle 20:55 il riepilogo delle principali notizie seguito dalla presentazione del programma dell'Indomani e alla fine la canzone araba con Kulusiva. Carissimi amici, con la speranza che i nostri programmi siano sempre di vostro gradimento, vi ringraziamo per la cortese attenzione e a risentirci dallo studio 33 Radio Cairo Psamart El Mekid. Grazie a voi e a risentirci. Qui il Cairo, Radio Diffusione della Repubblica Araba d'Egitto. We're gonna make it.